Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Wombat. Stasera leggiamo la seconda parte di Manuale per sopravvivere agli zombie di Max Brooks. Settimana scorsa abbiamo letto delle origini del Solanum, il virus dei non morti, e delle caratteristiche fisiche degli zombie. Oggi invece leggiamo i modelli di comportamento. Quindi, capitolo 2. I modelli di comportamento. A. Intelligenza. Come è stato più volte dimostrato, il nostro maggiore vantaggio sui non morti è la capacità di pensare. Le facoltà mentali dello zombie medio sono inferiori a quelle di un insetto. In nessuna occasione hanno mostrato alcun tipo di facoltà di ragionamento e uso della logica. Tentare di eseguire un compito, fallire e poi trovare una nuova soluzione imparando dai propri errori è una capacità condivisa da molti membri del regno animale, ma non dai morti viventi. Gli zombie hanno ripetutamente fallito i test di intelligenza in laboratorio, normalmente destinati ai roditori. Nell'ambito di un esperimento sul campo, sulle due sponde di un ponte crollato si trovavano da una parte un essere umano e dall'altra diverse decine di zombie. Uno per uno, tutti i morti ambulanti sono precipitati nel vuoto, nel futile tentativo di raggiungere l'umano. Nessuno di loro si è mai reso conto di cosa stesse accadendo né ha cambiato tattica in alcun modo. Contrariamente a quanto raccontano le leggende e le speculazioni, gli zombie non sono mai stati visti usare strumenti di alcun genere. Persino raccogliere una pietra da usare come arma è un'azione che supera la loro capacità di comprendere. Questo semplice gesto documenterebbe il ragionamento di base, che consiste nel rendersi conto che la pietra è un'arma più efficace della mano nuda. Per ironia della sorte, l'era dell'intelligenza artificiale ci ha permesso di identificarci più facilmente con la mente dello zombie che non con quella dei nostri antenati più primitivi. Fatte rare eccezioni, anche i computer più avanzati non hanno la capacità di pensare in modo autonomo. Fanno ciò per cui sono programmati, nulla di più. Immaginiamo un computer programmato per eseguire un'unica funzione, che non può essere né interrotta né modificata né tantomeno annullata. Non si possono immagazzinare altri dati né installare nuovi comandi. Tale computer eseguirà quella funzione senza mai fermarsi finché la sua fonte di energia non si spegne. Questo è il cervello dello zombie, una macchina monofunzionale guidata dall'istinto che non può essere modificata ma soltanto distrutta. B. Emozioni. I morti viventi non conoscono alcun genere di sentimenti. Ogni forma di guerra psicologica, dai tentativi di istigarli a quella di portarli a compassione, ha avuto esiti disastrosi. Gioia, tristezza, fiducia, ansia, amore, odio, paura, tutti questi e migliaia di altri sentimenti che compongono il cuore umano sono stati inutili quanto l'omonimo organo per i morti viventi. Chissà se questa è la più grande debolezza o il maggior punto di forza dell'umanità. Il dibattito continua e probabilmente continuerà in eterno. C. Memorie. Secondo una recente teoria, lo zombie mantiene la conoscenza della vita passata. Si sentono storie di non morti che fanno ritorno alle loro abitazioni o ai posti di lavoro. Utilizzano macchinari conosciuti o compiono persino gesti di pietà verso i cari. In verità, non esiste lo straccio di una prova a sostegno di questa pia illusione. Gli zombie non possono conservare ricordi della loro vita passata né a livello conscio né a livello inconscio, perché nessuno di questi due esiste. Lo zombie non sarà distratto dall'animale domestico, dai parenti ancora vivi, dai luoghi familiari. A prescindere da chi fosse prima di morire, ormai quella persona è scomparsa, rimpiazzata da un automa, senza facoltà intellettive, con l'unico istinto di nutrirsi. Questo porta a chiedersi perché gli zombie preferiscono le aree urbane alla campagna? In primo luogo, i non morti non preferiscono le città, ma restano semplicemente là dove si rianimano. In secondo luogo, la ragione principale per cui gli zombie tendono a rimanere nelle città, anziché avventurarsi nelle campagne, è che le aree urbane offrono maggiore concentrazione di prede. D. Bisogni fisiologici. A parte la fame, che discuteremo in seguito, i non morti non manifestano alcune delle necessità o esigenze fisiologiche mostrate nel corso della vita mortale. Gli zombie non sono mai stati visti dormire o riposare in nessuna circostanza. Non reagiscono al calore né al freddo estremo. In condizioni climatiche rigide non cercano mai un riparo. Persino una semplice necessità come la sete è a loro sconosciuta. Sfuggendo ad ogni legge scientifica, il Solanum ha creato quello che può descriversi un organismo completamente autosufficiente. Comunicazione. Gli zombie non possiedono facoltà linguistiche. Le corde vocali sarebbero in grado di parlare, ma il cervello non lo è. L'unica capacità vocale sembra essere un lamento gutturale che viene emesso quando lo zombie identifica la preda. Il suono rimane basso e uniforme finché non avviene il contatto fisico, poi varia di tono e di volume non appena lo zombie inizia l'attacco. Questo suono lugubre, tipicamente associato ai morti viventi, funge da grido di richiamo per altri zombie e, come è stato scoperto di recente, è una potente arma psicologica. F. Dinamiche sociali. Da sempre si diffondono teorie secondo le quali i non morti agiscono come una forza collettiva. Da un'armata controllata da Satana a una specie di alveare regolato da feromoni come gli insetti, fino all'idea più recente secondo cui raggiungono un'intesa di gruppo tramite la telepatia. La verità è che gli zombie sono privi di qualunque organizzazione sociale di sorta. Non c'è gerarchia né catena di comando né alcuna spinta verso un qualsiasi tipo di collettivizzazione. Un'orda di non morti, a prescindere da forma e dimensioni, altro non è che una massa di individui. Se diverse centinaia di zombie convergono su una vittima è perché ognuno di loro è guidato dal proprio istinto. Gli zombie sembrano non essere coscienti l'uno dell'altro. Nessun individuo è stato mai visto reagire alla vista di un simile a qualsiasi distanza. Questo ci riconduce alla questione dei sensi. Come fa lo zombie a distinguere un individuo della sua specie da un umano o da un'altra preda a parità di distanza? La domanda è tuttora senza risposta. In effetti, gli zombie evitano i propri simili allo stesso modo in cui evitano gli oggetti inanimati. Quando due esemplari si incontrano, non tentano affatto di entrare in comunicazione. Diversi zombie che stanno divorando lo stesso cadavere tenderanno a contendersi la carne in questione, a ripetuti strattoni, anziché cercare di spingere via il retale. L'unico indizio di un'azione collettiva si ha osservando i famigerati attacchi di massa, ossia quando il lamento di uno zombie richiama tutti gli zombie della zona a portata d'orecchio. Una volta udito il lamento, altri morti viventi convergono quasi sempre verso la sua fonte. In passato, uno studio teorizzò che si trattasse di un atto volontario, che un esploratore utilizzasse cioè il lamento per indicare agli altri dove attaccare. Oggi, tuttavia, sappiamo che ciò avviene per puro caso. Lo zombie che emette il lamento alla vista della preda lo fa per una reazione istintiva e non per avvisare i suoi simili. G. Caccia. Gli zombie sono esseri migratori, privi del concetto di territorio e di casa. Possono percorrere chilometri e, tempo permettendo, anche attraversare interi continenti in cerca di cibo. Cacciano in modo casuale, cibando sia di giorno che di notte. Più che esplorare consapevolmente una zona, non fanno altro che vagarvi senza un vero obiettivo. Gli zombie non selezionano l'una o l'altra zona o struttura in base alla propria probabilità di trovarvi molte prede. Per esempio, è noto che all'interno dello stesso gruppo alcuni zombie possono scegliere di setacciare fattorie e altre strutture rurali, mentre altri proseguono oltre senza nemmeno rivolgervi uno sguardo. Esplorare le aree urbane richiede più tempo, ragione per cui i morti tendono a fermarvisi più a lungo, ma anche qui nessun edificio è dato la precedenza su un altro. Gli zombie sembrano completamente inconsapevoli di ciò che li circonda. Quando approvano in una nuova area, per esempio, non muovono gli occhi in modo tale da captare quanto più informazioni possibili. Trascinandosi in silenzio, con un campo visivo di quasi un chilometro, vagano senza meta, indipendentemente dal territorio, finché non individuano una preda. Come abbiamo detto in precedenza, i non morti hanno una capacità straordinaria di dirigersi verso la precisa posizione della vittima. Una volta stabilito il contatto, quell'automa, prima silenzioso e distratto, si trasforma in qualcosa che assomiglia di più a un missile teleguidato. Subito la testa si volta in direzione della vittima, la mascella si abbassa, le labbra si ritraggono e dalla profondità del diaframma giunge il caratteristico lamento. Quando il contatto è stabilito, nulla può più distogliere lo zombie dalla preda. Continuerà a inseguirla all'infinito, fermandosi solo se perde il contatto, se uccide la vittima o se viene distrutto. H. Motivazione. Per quale ragione i non morti fanno preda dei vivi? Una volta provato che la carne umana non serve loro da nutrimento, perché l'istinto li porta a uccidere? La verità ci sfugge. La scienza moderna e i fatti storici hanno dimostrato che gli esseri umani non sono l'unica prelibatezza del menù dei non morti. Stando ai resoconti delle squadre di soccorso, le aree infestate risultano sempre spogliate di ogni forma di vita. Ogni creatura, a prescindere da specie e dimensioni, sarà consumata dagli zombie. Tuttavia, la carne umana verrà sempre preferita alle altre. Nel corso di un esperimento, un esemplare di zombie catturato è stato messo davanti a due cubi di carne identici, uno di carne umana, uno di carne animale. Lo zombie ha ripetutamente scelto la carne umana. Quello che si può confermare senza la minima ombra di dubbio è che l'istinto generato dal Solanum spinge il non morto a sterminare e divorare ogni creatura vivente che incontra. Non sembrano esistere eccezioni. I. Uccidere i morti. Annientare uno zombie è concettualmente semplice, ma tutt'altro che facile. Come abbiamo visto, gli zombie non necessitano di tutte queste funzioni fisiologiche che agli esseri umani sono indispensabili per sopravvivere. Distruggere o danneggiare gravemente i sistemi circolatorio, digerente e respiratorio non ha alcun effetto su un esemplare non morto, poiché queste funzioni non sostentano più il cervello. In una parola semplice, ci sono mille modi per uccidere un umano, ma un solo modo per uccidere uno zombie. Il cervello va eliminato con ogni mezzo possibile. 6. Eliminazione. Secondo gli studi, il Solanum può rimanere nel corpo di uno zombie terminato anche fino a 48 ore. Eliminare i resti degli zombie richiede la massima cautela. In particolare, la testa, data la concentrazione del virus, a presentare il pericolo maggiore. Il corpo di un non morto non va mai trattato senza indumenti protettivi. Bisogna agire come un qualsiasi altro materiale tossico o altamente nocivo. Il metodo di smaltimento più sicuro e efficace è l'incenerimento. Malgrado le voci secondo le quali un rogo di cadaveri accatastati si diffonderebbe il Solanum in una nuvola di fumo tossico, dovrebbe essere chiaro a tutti che nessun virus è in grado di sopravvivere al calore intenso, per non parlare del fuoco. Addomesticamento. Lo ripetiamo, il cervello zombie è il risultato sino a questo momento del tutto inalterabile. Tutti gli esperimenti, dalla chimica alla chirurgia fino all'uso di onde elettromagnetiche, hanno dato risultati negativi. Allo stesso modo è fallita ogni terapia volta a modificare il comportamento, nonché ogni tentativo di addestrare il morto vivente come un qualsiasi animale domestico. Per ribadire il concetto, la macchina non è suscettibile di modifiche. Esiste così com'è o non esiste affatto. Lo zombie voodoo. Se gli zombie sono il prodotto di un virus e non della magia nera, come si spiega allora il cosiddetto zombie voodoo, ossia una persona che muore, viene resuscitata dalla tomba e costretta a obbedire per sempre ai vivi? Sì, è vero, la parola zombie trae origine dal termine kimbundu, nzumbe, che definisce l'anima di una persona morta. E sì, è vero, anche gli zombie, la zombificazione, sono parte integranti della regione afro-caraibica nota come voodoo. Tuttavia, l'origine del nome è l'unico punto in comune tra lo zombie voodoo e lo zombie virale. Si dice che gli Ugungan, i sacerdoti voodoo, usino la magia per trasformare gli esseri umani in zombie, ma in realtà tale pratica ha basi scientifiche concrete e inconfutabili. La polvere zombie, lo strumento che l'Ugungan ha per creare gli zombie, contiene una potentissima neurotossina. I precisi ingredienti sono un segreto gelosamente custodito. Questa tossina paralizza temporaneamente il sistema nervoso umano, causando uno stato di profondo letargo. Con il cuore, i polmoni e tutte le altre funzioni corporee a livelli minimi, è comprensibile che un coroner, un esperto, dichiari deceduto un soggetto solo paralizzato. Molti esseri umani vengono sepolti mentre si trovano in questo stato, per poi risvegliarsi urlanti nella totale oscurità della bara. Dunque, che cosa fa di quest'uomo vivo uno zombie? La risposta è semplice: le lesioni cerebrali. Molti dei seppelliti vivi consumano rapidamente l'aria presente all'interno della bara. Quelli che vengono recuperati, se sono fortunati, riportano quasi sempre lesioni cerebrali per carenza di ossigeno. Queste povere anime vagano strascicandosi con poche capacità cognitive, addirittura senza volontà, e spesso vengono scambiate per morti viventi. Come distinguere quindi uno zombie voodoo dall'originale? Gli indizi rivelatori sono ovvi. 1. Gli zombie voodoo manifestano emozioni. Le persone che hanno subito danni cerebrali dovuti alla polvere zombie sono ancora in grado di provare tutti i comuni sentimenti umani. Sorridono, piangono, brontolano arrabbiati se colpiti o provocati in altro modo, cosa che i veri zombie non farebbero mai. 2. Gli zombie voodoo manifestano il pensiero. Come abbiamo spiegato in precedenza, quando un vero zombie incontra una preda, si dirige immediatamente verso di lei come un missile intelligente. Lo zombie voodoo impiega invece qualche momento per tentare di capire chi e che cosa ha davanti. A questo punto può avvicinarsi, indietreggiare oppure continuare a osservare mentre il suo cervello danneggiato cerca di analizzare le informazioni ricevute. Ciò che uno zombie voodoo certamente non farà è invece alzare le braccia, aprire la bocca, emettere un lamento diabolico e trascinarsi seduta stante in direzione della vittima. Gli zombie voodoo 3. Gli zombie voodoo provano dolore. Se uno zombie voodoo inciampa e cade, senza alcun dubbio porterà le mani al ginocchio ferito e si metterà a piagnucolare. Allo stesso modo, uno zombie già sofferente per qualsiasi altra ferita cercherà di curarsi, o quantomeno sarà consapevole della sua esistenza. Mai e poi mai uno zombie voodoo ignorerà un profondo squarcio nel proprio corpo, come invece farebbe un vero zombie. 4. Gli zombie voodoo riconoscono il fuoco, ma non è detto che lo temano. chi ha subito lesioni cerebrali molto gravi può infatti non ricordare che cosa sia. Questi si soffermerà per esaminarlo, magari allungherà anche la mano per toccarlo, ma si allontaneranno appena si renderà conto che causa di dolore. 5. Gli zombie voodoo percepiscono l'ambiente circostante. A differenza dei veri zombie che riconoscono solo la preda, gli zombie voodoo reagiscono a variazioni improvvise di luce, suono, gusto e odore. Gli zombie voodoo sono stati visti guardare la televisione e fissare fonti luminose, ascoltare musica, trasalire al rombo di un tuono e persino riconoscersi tra simili. In molti casi quest'ultimo fatto si è rivelato cruciale nel distinguere i vivi dai morti. Se gli zombie in questione non avessero reagito alla vista l'uno dell'altro, si guardavano reciprocamente, facevano rumore, si toccavano la faccia, qualcuno avrebbe potuto eliminarli per errore. 6. Gli zombie voodoo non hanno sensi ipersviluppati. Un essere umano che ha seguito gli effetti debilitanti della polvere zombie è ancora un essere umano che si affida principalmente alla vista. Non può agire alla perfezione nell'oscurità, udire un passo a mezzo chilometro di distanza, né fiutare un essere vivente in un alito di vento. È addirittura possibile sorprendere uno zombie voodoo alle spalle se ci si avvicina in silenzio. Non è tuttavia consigliabile, dato che uno zombie spaventato può reagire in modo violento. 7. Gli zombie voodoo sono in grado di comunicare. Non è sempre così, ma molti di questi individui sono capaci di rispondere a segnali audiovisivi. Molti di loro comprendono certe parole. Alcuni arrivano a capire anche semplici frasi. Numerosi zombie voodoo hanno la capacità di parlare, ovviamente in modo elementare e non solo di rado per lunghe conversazioni. 8. Gli zombie voodoo sono manipolabili. Anche se non è sempre vero, molti umani affetti da lesioni cerebrali perdono buona parte della propria autocoscienza, il che rende molto sensibili ai condizionamenti esterni. Per liberarsi di uno zombie voodoo può essere sufficiente gridargli di fermarsi o addirittura di andarsene via. A questo sono dovute le pericolose situazioni in cui alcuni sprovveduti credono di poter controllare o addomesticare veri zombie. Solo dopo essersi sentite le membra afferrate da mani fredde e putride, della carne affondata da denti luridi e consumati, queste persone si sono rese conto, ormai troppo tardi, con che cosa stessero realmente avendo a che fare. Queste linee guida dovrebbero dare un'idea di come distinguere uno zombie voodoo da uno zombie vero e proprio. Un ultimo appunto. Gli zombie voodoo si trovano quasi sempre nell'Africa subsahariana, ai Caraibi, nell'America centrale e meridionale e nel sud degli Stati Uniti. Certo, non è impossibile imbattersi in una persona trasformata in uno zombie da uno Kungan altrove, ma le probabilità di un simile incontro sono minime. Lo zombie hollywoodiano. Sin da quando i morti viventi sono approdati per la prima volta sul grande schermo, i loro peggiori nemici non sono i cacciatori, ma i critici. Studiosi, scienziati e persino cittadini preoccupati sostengono tutti che in questi film i morti viventi sono dipinti in modo fantastico e realistico. Armi strabilianti, sequenze di azioni fisicamente impossibili, personaggi umani fuori dal comune, soprattutto zombie magici, invincibili, ancora comici. Tutto ciò ha contribuito con propri colori a formare il controverso arcobaleno del film sugli zombie. Ulteriori critiche hanno evidenziato come questa tendenza a preferire lo stile alla sostanza nei film sugli zombie insegna agli spettatori cose che potrebbero farli soccombere in un scontro reale. Sono accuse serie che meritano una difesa altrettanto seria. Benché alcuni film sugli zombie siano basati su fatti realmente accaduti, il loro obiettivo, in fondo, lo scopo di quasi ogni film di qualsiasi genere, è sempre stato in primo luogo quello di intrattenere. A meno che non si parli di documentari puri, e persino tra questi ce ne sono alcuni edulcorati, i registi devono prendersi qualche licenza artistica per rendere il proprio lavoro più gradevole al pubblico. Anche i film basati su fatti realmente accaduti devono sacrificare la pura realtà per riuscire a intrattenere. Certi personaggi saranno un miscuglio di varie persone reali. Altri possono essere del tutto immaginari e servire a spiegare determinati fatti, agevolare lo svolgersi della trama o solamente dare più colore alla scena. Qualcuno potrebbe sostenere che il ruolo dell'artista è di mettere alla prova, educare e illuminare il pubblico. Può essere vero, ma provate voi a trasmettere conoscenze a un pubblico che se n'è già andato e si è addormentato entro i primi 10 minuti di proiezione. Basta accettare questa regola basilare della cinematografia per comprendere il motivo per cui i film hollywoodiani sugli zombie si allontanano, in alcuni casi in modo eclatante, dalla realtà sulla quale si basano. Per farla breve, prendete questi film per come sono stati concepiti. come fonte di temporaneo e spensierato intrattenimento e non certo come supporto visivo per la vostra sopravvivenza. Per questa sera è tutto. Settimana prossima leggeremo qualcosa sugli attacchi degli zombie e sulle armi e le tecniche di combattimento.